Ormai sono una decina d'anni che siamo grosso modo un punto mediamente al di sotto della crescita europea, dell'Unione, dal 97. Si parla anche di una crisi di produttività. A che cosa è dovuta questa crisi? Forse è più facile rispondere a che cosa non è dovuta, nel senso che un più lento andamento della produttività nel corso degli anni 90 è stato ascrivibile prevalentemente alla ricomposizione settoriale dell'economia italiana. L'economia italiana si è terziarizzata relativamente in ritardo rispetto a quella di altri paesi, poiché nel settore dei servizi in genere la produttività è più bassa. Questo spiegava la più lenta crescita o addirittura la stasi della produttività nel corso degli anni 90. Abbiamo la quasi certezza che negli anni 2000 non è più questa la spiegazione, perché quel tipo di ricomposizione si è interrotta, o meglio, ha raggiunto ormai i suoi risultati. Ormai la nostra terziarizzazione è comparabile a quella delle altre economie avanzate. È probabilmente l'effetto di altri fattori, minore vitalità, diciamo così, ancora una crescita più rapida dell'occupazione, ma questa insomma è una cosa abbastanza banale, una crescita più rapida dell'occupazione rispetto a quella appunto del valore aggiunto, che quindi ha un impatto negativo sulla produttività. Direi però che nonostante questo ci sono alcuni segnali positivi importanti nel periodo più recente. Ad esempio le esportazioni nel periodo più recente hanno avuto una ripresa abbastanza forte, e tra i segnali positivi direi due o tre. Uno è che ovviamente abbiamo perso quote di mercato, ma le quote di mercato le abbiamo perse perché a parità di dimensione della torta, cioè il mercato mondiale, quando ragioniamo in quote, sono cresciute di molto le quote dei paesi che sono esplosi in questi anni, in particolare della Cina. Rispetto ai nostri concorrenti, l'export italiano ha tenuto, cioè noi abbiamo perso quote, ma abbiamo perso quote in misura minore della maggior parte dei nostri concorrenti diretti. Terzo segnale interessante è che esportiamo bene, benissimo nei mercati extraeuropei, extra Unione Europea, e soprattutto esportiamo verso paesi che si sono dimostrati particolarmente ricettivi al Made in Italy, come la Russia e la Turchia. Veniamo alle famiglie, la spesa è aumentata, ma quanto di questo dipende anche proprio dall'aumento dei prezzi degli alimentari? Quelle che hanno aumentato di molto il loro peso, diciamo, nella struttura della spesa familiare sono le spese per i trasporti, per l'energia, per l'abitazione, mentre invece non sono aumentate, anzi sono diminuite un po' in tutte le famiglie, sono diminuite le spese per cultura, tempo libero, eccetera. Quindi non è tanto l'aumento dell'incidenza delle spese alimentari che invece sono diminuite. Il calo della disoccupazione prosegue, però non aumenta l'occupazione. Persistono le disparità tra nord e sud, tra uomini e donne? Assolutamente sì, e vanno in parte anche di pari passo, nel senso che le maggiori difficoltà occupazionali, che poi si traducono non in disoccupazione, ma si traducono in inattività, quindi si traducono in rinuncia a cercare di entrare sul mercato del lavoro, addirittura si traducono in scoraggiamento, cioè alle interviste queste persone rispondono spesso che non cercano lavoro perché non hanno speranza di trovarlo. Beh, questo tende a concentrarsi geograficamente nel sud e poi si concentra soprattutto nella componente femminile, quindi sud e donne fanno sì che le donne del sud abbiano un tasso di attività particolarmente basso, e questo vale anche per i giovani, soprattutto nel sud, ma per i giovani spesso questo comportamento non è una rinuncia definitiva al mercato del lavoro, ma è per esempio la scelta di proseguire gli studi, mentre invece per le donne del sud molto spesso è la rinuncia appunto per fenomeni di scoraggiamento, e anche perché la mancanza di servizi, quelli che si chiamano i servizi di conciliazione, quindi la possibilità di affidare i figli a strutture come gli asili nido, di fatto impediscono alle donne appunto di trovare un'occupazione.